notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Naturalmente è del tutto legittimo che ci possano essere delle manifestazioni di protesta, degli scioperi. Spero che si possano risolvere le polemiche che ci sono state in queste ore tra il ministro delle infrastrutture e il segretario della CGIL. C'è un diritto allo sciopero che è sacrosanto, costituzionalmente garantito, e che noi rispettiamo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'aveva appena detto Renzi, sapete che c'era stata un po' questa maretta, anzi più che maretta proprio uno scontro duro tra la leader della CGIL Camusso e il ministro dei trasporti Lupi, perché aveva precettato per lo sciopero generale che ci sarà domani i ferrovieri, i ferrotranvieri, insomma, quindi i treni dovevano andare domani. Invece poi dopo la tensione che cresceva, Renzi ha detto le cose che avete sentito, e quindi poco fa, diciamo sarà stato un'ora fa o poco di più, il ministro dei trasporti Lupi ha deciso di revocare questa precettazione per i ferrovieri che domani, se vogliono, quindi potranno scioperare. Parleremo in parte di questo, ma ci sono tante notizie importanti. C'è un altro caso terribile di un bambino di cui parleremo tra poco e approfondiremo anche questo tema, ritorneremo anche sul caso di Loris, e poi ci sono altri temi, la politica in particolare con Grillo, questo botta e risposta di Grillo Napolitano, sul quale potete fare i vostri commenti, ecco, su questo tema, le vostre riflessioni attraverso i soliti due canali, qui Effetto Notte, che sono Savassandir, la pagina di Effetto Notte su Facebook, oppure al numero per gli sms che è il 349-238-6666, 349-238-6666 per gli sms, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, e potete commentare su questo scontro anche tra Napolitano e Grillo, che va avanti da un po' di tempo e tra ieri e oggi si è acuito. Intanto però vi riassumo come sempre le notizie più importanti della giornata. Sciopero dopo lo scontro tra CGIL e governo, il ministro Lupi fa un passo indietro e revoca la precettazione dei ferrovieri per lo sciopero generale di domani. Riforme, tensioni nel PD, Del Rio avverte la minoranza, se vuole le elezioni lo dica. Mafia Capitale, Pignatone annuncia presto nuove operazioni, ma a Roma non c'è un'unica mafia che controlla tutto. Bordighera, scomparso un bimbo russo di 10 mesi, non convince la versione della mamma che è stata indagata e anzi notizia di questi istanti, è stata sottoposta a fermo per omicidio aggravato la mamma di questo bimbo. Benzina scende sotto 1,6 euro, prima volta da 3 anni, anche il gasolio torna ai minimi dal 2011. Google stoppa le news in Spagna, è la prima volta, non vuole pagare gli editori per i contenuti. Spazio, dai primi dati forniti dalla sonda Rosetta, l'acqua della Terra non deriverebbe dalle comete ma dagli asteroidi. E per il calcio, 4 squadre italiane nelle sfide di Europa League. Partiamo quindi dal passo indietro del ministro dei trasporti Lupi sulla precettazione dei ferrovieri. Spero si possano risolvere le polemiche tra il ministro Lupi e Susanna Camusso, va detto oggi, come avete sentito, Renzi, a proposito della polemica tra la CGIL e il governo sulla precettazione dei ferrovieri in vista dello sciopero generale di domani. In serata, quindi poco fa, Lupi ha revocato l'ordinanza di precettazione e a questo punto, insomma, domani potranno partecipare, se vogliono, allo sciopero proclamato da CGIL e UIL. E per tutta risposta la leader CGIL e il leader della UIL, quindi Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo, hanno commentato: avevamo ragione noi, il governo ha dovuto fare marcia indietro e revocare la precettazione dei ferrovieri, non c'erano le condizioni di legge per inibire il diritto di sciopero, è un primo segnale di ravvedimento del governo che speriamo sia di buon auspicio per il futuro, dicono i leader sindacali. E intanto si riaccende, vi dicevo, lo scontro sulle riforme anche in casa PD, non solo tra Grillo e Napolitano, dopo che il governo è stato battuto su 2 emendamenti proposti dalla minoranza. Il sottosegretario Del Rio attacca e dice: se vogliono le elezioni lo dicano. E da Ankara, in Turchia, interviene anche il presidente del Consiglio Renzi. Mentre il premier è in visita ad Ankara, a Roma si consuma l'ennesimo scontro fra minoranza e maggioranza PD. Sullo sfondo il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, che ha mandato sotto il governo anche con il dissenso di alcuni esponenti della minoranza DEM. Questo voto è stato considerato un voto come segnale politico. Un segnale politico che mette ancora una volta in fibrillazione il partito del premier e accende la spia delle elezioni anticipate. Renzi ribadisce che per quello che lo riguarda la legislatura finisce a febbraio del 2018, ma di segnali politici, dice, si parlerà domenica quando è prevista l'assemblea del PD. Ad alimentare lo scontro sono soprattutto il sottosegretario Del Rio e l'ex premier D'Alema. Se la minoranza del PD vuole andare a votare lo dica, tuona Del Rio, ma noi vogliamo arrivare al 2018. È una minaccia minaccia ai parlamentari, dice Massimo D'Alema. Del Rio dovrebbe sapere che le riforme costituzionali sono materia parlamentare e deputati e senatori hanno il diritto e il dovere di migliorare i testi. Non è buona norma mandare sotto il governo, secondo il presidente del PD Orfini. In ogni caso il segretario e capo dell'esecutivo definisce quello in commissione alla Camera un incidente di percorso a cui si rimedierà in aula. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La maggioranza nel frattempo però lavora anche alla legge di stabilità con le ultime modifiche che riguardano tasse e bonus. A Palazzo Madama si avvia ad entrare nel vivo l'esame in seconda lettura della legge di stabilità. Per fare il punto sulla manovra questa mattina, prima di partire per la Turchia, il premier Renzi ha incontrato il ministro dell'economia Padoan. Entro stasera anche il governo dovrebbe presentare i suoi emendamenti. Tramontata l'ipotesi di un varo immediato della local tax, in queste ore la commissione bilancio è al lavoro per una prima scrematura delle oltre 3.800 proposte di modifica arrivate dai senatori. Fra le novità c'è un emendamento del PD che chiede di ripristinare le penalizzazioni per chi andrà in pensione con un assegno superiore ai 3.500 euro, avendo raggiunto la sola anzianità contributiva. Come fatto alla Camera, la minoranza Dem chiede invece di nuovo di modificare la platea dei beneficiari del bonus da 80 euro, legandolo all'ISEE, l'indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. Nel frattempo, dall'OCSE arrivano nuovi dati sul PIL italiano, che nel terzo trimestre dell'anno è calato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, collocando il nostro paese al penultimo posto della classifica del G20, davanti al solo Giappone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore Roma. E ritorniamo sulla politica, in senso di partiti e anche di scontri, con questo nuovo attacco, vi dicevo, tra Beppe Grillo e il capo dello Stato. Caro Napolitano, scrive Grillo sul suo blog, io sono e rimarrò un eversore e ne sono fiero. Accostarmi al sacco di Roma come lei ha fatto ieri mi rende anche un po' orgoglioso. Un monito così equivale a un'onorificenza, dice il fondatore del Movimento 5 Stelle, che a Napolitano rivolge anche una domanda. Mentre la Repubblica affondava nel fango, lei dov'era? Su Marte? E ancora non si sente responsabile di quel che è successo? Chi è l'antipolitica, dice Grillo, lei o io che mi dichiaro eversore? Voi cosa ne pensate di questo botta e risposta tra Napolitano e Grillo? Potete scriverlo al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, mentre passiamo alle notizie dall'estero. Parliamo di Nigeria. Una ragazzina di 13 anni è stata arrestata a Kano con indosso una cintura esplosiva. Lo rivela una fonte della sicurezza nigeriana e si era parlato già i giorni scorsi, che spesso arruolano anche bambine, ragazzine e giovani donne. È di 31 morti intanto il bilancio del doppio attentato che ha colpito un mercato nella città di Jos, proprio nella Nigeria centrale. Le esplosioni sono avvenute dopo le 18, vicino al luogo dove lo scorso maggio un attacco simile ha ucciso almeno 118 persone. Oggi il bilancio è di 31. Dagli Stati Uniti arriva una specie di ammissione dopo il rapporto sulle torture da parte della CIA. Dopo l'11 settembre arriva un'ammissione dal direttore della CIA Brennan, che dice: dopo l'11 settembre temevamo di essere colpiti ancora da un nemico che non riuscivamo a vedere, non c'erano state risposte facili, e quindi dice è vero che l'agenzia ha utilizzato, cioè la CIA, metodi di interrogatorio ripugnanti e non ha chiamato alcuni agenti responsabili di errori a risponderne. Con la cronaca torniamo sulle notizie italiane e sull'inchiesta Mafia Capitale. Nella giunta romana, travolta dalle indagini, entra ora come assessore anche Alfonso Sabella, che è un ex PM palermitano, già in prima fila nella cattura di Boss. Intanto l'inchiesta su Mafia Capitale si allarga ancora ad altre due persone che sono state arrestate in un'operazione che svela i rapporti fra l'organizzazione romana e l'andrangheta calabrese. In quella rete là comandano loro, in questa comandiamo noi. Da pari a pari, Mafia Capitale parla e tratta con l'andrangheta calabrese in uno scambio di reciproci favori. Così, ai primi arriva la protezione dei clan per gli investimenti nel Cosentino, ai secondi la cessione di subappalti pubblici all'ombra del cupolone. E attraverso Salvatore Ruggero e Rocco Rotolo, entrambi arrestati, che Mafia Capitale stringe un accordo di collaborazione, scrive il GIP, col potente clan Mancuso. Un accordo che porta la cooperativa 29 giugno di Salvatore Buzzi, sempre lui il referente economico dell'organizzazione romana, a gestire il centro per i richiedenti asile di Cropani Marina. Parlavo col prefetto, parlavo con l'andrangheta, parlavo con tutti, racconta al telefono l'imprenditore Capitolino. E se avevano ottenuto quel rispetto, per dirla col loro codice, questo era stato possibile anche per l'intermediazione, si legge nell'ordinanza, della famiglia dei Piromalli di Gioia Tauro, a cui Ruggero era legato. In cambio le cosche calabresi avevano la strada aperta per gli affari della capitale attraverso un loro uomo, Giovanni Campenì. Un gingillo lo chiamano perché pulito, e di spazi nuovi l'andrangheta ha bisogno perché, si dicono al telefono, qua siamo bersagliati dai giudici. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E presto ci saranno ancora altre operazioni, ha anticipato il procuratore capo di Roma Pignatone, ascoltato oggi in commissione parlamentare antimafia, ha confermato anche come per effetto dell'inchiesta alcuni appalti sono stati bloccati. E ora in Liguria, a Bordighera, dove una turista russa è indagata per la sparizione del figlio, un bambino di soli 10 mesi, e vi dicevo, notizia di poco fa, che è stata fermata per omicidio volontario. Poi torneremo a parlarne, come torneremo a parlare anche del caso di Loris, perché tra l'altro la mamma del bambino ucciso a Santa Croce di Camerina vicino a Ragusa oggi è stata interrogata, sottoposta a interrogatorio di garanzia, che adesso dovranno passare alcune ore, alcuni giorni probabilmente, per la conferma, la convalida del fermo da parte del GIP. Però oggi in lacrime ha continuato a proclamare la propria innocenza. Anche di questo parleremo, vi dicevo. Intanto c'è una buona notizia sui carburanti: il prezzo della benzina scende per la prima volta da 3 anni sotto la soglia di 1,6 euro al litro. Secondo le rilevazioni del MISE relative all'ultima settimana, il prezzo medio si è ridotto a 1,596 euro, mentre il gasolio è calato a 1,506. Si parla anche di Google oggi, perché in Spagna è scontro appunto tra Google e il governo. Giulia Saracinesca: dal prossimo 16 dicembre in Spagna Google News non esisterà più. La reazione del gigante americano non si è fatta attendere, a fronte di un'azione, la legge sulla proprietà intellettuale approvata il 31 ottobre, ritenuta inaccettabile. Quella che è stata subito ribattezzata Google Tax impone agli aggregatori di contenuti di pagare gli editori per gli articoli indicizzati. Obbligo di pagare, ma anche obbligo di essere pagati. Così non è per esempio in Germania, dove una legge c'è, ma gli editori possono anche volontariamente non chiedere corrispettivi. Da qui accordi fra Google e gli stessi editori, anche ob torto collo, come nel caso del più grande, Axel Springer. Gli articoli spagnoli comunque non spariranno da Google, c'è pur sempre il motore di ricerca, ma l'aggregatore non esisterà più, anche perché, spiegano dalla multinazionale, il servizio crea traffico per gli editori ma non ha pubblicità. Avvertiti tutti, anche il Parlamento europeo, che ha votato una risoluzione per lo spacchettamento dell'azienda. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso rilassiamoci, per quelli che sono meno appassionati, con il calcio, con Dario Ricci. È una giornata, serata di Europa League, vero Dario? Sì, Roberta, ultima giornata della fase a gironi. Direi che il risultato più importante, le italiane lo hanno già portato a casa, perché l'unica ad essere ancora in dubbio della qualificazione alla fase successiva era il Torino. Ebbene, i Granata hanno sbancato Copenaghen vincendo per ben 5-1, una vittoria aiutata in qualche modo dalle due espulsioni che hanno colpito i danesi, espulsioni peraltro giustissime, e quindi netto successo del Torino, che si qualifica. Era l'unica in dubbio, perché l'Inter, già qualificata come prima nel suo girone, ha pareggiato 0-0 a Baku contro il Karabakh, tra l'altro annullato all'ultimo minuto un gol regolare al Karabakh, che in caso di vittoria si sarebbe a sua volta qualificato, quindi un po' di rammarico per la squadra di casa. Mentre in campo da 10 minuti c'è il Napoli, in vantaggio già per 1-0 sullo Slovan Bratislava. In questo caso, con questa vittoria, il Napoli si assicura, curerebbe a sua volta, il primo posto nel girone, mentre è ancora 0-0 a Firenze tra Fiorentina e Dinamo Minsk, ma anche in questo caso Fiorentina già qualificata e sicura del primo posto nel suo raggruppamento. Grazie Dario Ricci, quindi ci aggiorneremo poi più tardi sui risultati di queste partite, anche se avete già sentito delle qualificazioni ormai già compiute. Ci sentiamo tra poco, adesso aggiorniamo chi viaggia. Se volete continuare a commentare soprattutto la parte politica dello scontro tra Grillo e Napolitano, ve l'ho detto, ci sono i messaggi per il 349-238-6666 e la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme alle notizie. Adesso, come sempre, dopo questo primo riassunto, approfondiamo alcuni temi in particolare, le notizie principali di oggi, ma vi riassumo brevemente anche quelle le altre. sciopero. Dopo lo scontro tra CGIL e governo, il ministro Lupi oggi ha fatto in serata un passo indietro e revoca la precettazione dei ferrovieri per lo sciopero generale di domani. Intanto sulle riforme tensioni nel PD, Del Rio avverte la minoranza, dice se vuole le elezioni lo dica subito. Mafia Capitale, il procuratore Pignatone annuncia che presto ci saranno nuove operazioni, ma a Roma, sottolinea, non c'è un'unica mafia che controlla tutto. Bordighera, scomparso un bimbo russo di 10 mesi e la madre è stata fermata per omicidio volontario. Benzina scende sotto 1,6 euro, prima volta da 3 anni, anche il gasolio torna ai minimi dal 2011. Google, stop alle news in Spagna, succede per la prima volta, non vuole Google pagare gli editori per i contenuti. Spazio, dai primi dati forniti dalla sonda Rosetta, l'acqua della Terra non deriverebbe dalle comete ma dagli asteroidi. E adesso affrontiamo il primo tema di questa sera con la notizia di aggiornamento che vi ho dato poco fa. A Sanremo, in Liguria, si parlava oggi pomeriggio di un bimbo russo di 10 mesi scomparso, lo si riteneva disperso per qualche ora, figlio di una coppia di turisti russi in vacanza in Liguria, in realtà figlio soltanto di lei, lui è il compagno di lei che ha dato poi l'allarme, perché la madre di questo bambino era uscita nella notte dall'albergo dove stavano, era uscita con il bambino di 10 mesi, poi era tornata all'alba senza il bambino, il compagno non si era accorto di nulla finché poi lei ha detto la mattina l'ho gettato in mare. La polizia ha cercato i sommozzatori, i pompieri per un po' e poi è stata notizia di poco fa che vi davo, è stata fermata, è stata arrestata la donna, avrebbe confessato: sono stata io, ha detto agli investigatori che l'hanno interrogata per diverse ore, ho portato al largo il bambino a nuoto a Bussana, sempre lì in Liguria, e poi lo ha negato. La donna è stata trasferita nel carcere genovese di Ponte Decimo in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. Avrebbe dichiarato di aver compiuto il folle gesto dopo aver riconosciuto nel figlio i sintomi della schizofrenia, la stessa malattia che dice aveva colpito sua madre. Quindi per il momento questo è il suo movente, mentre ancora non si sa il movente dello strangolamento, della tragica, terribile fine del piccolo Loris di 8 anni vicino Ragusa. La mamma, Veronica Panarello, sapete che è in carcere da 2 giorni. E oggi c'è stato un interrogatorio di garanzia, lei di nuovo tra le lacrime ha proclamato la sua innocenza. Vogliamo sentire che cosa ha detto l'avvocato della donna Villardita. Ha risposto a tutte le domande e ha risposto senza nessun tipo di cedimento, riconfermando integralmente la stessa versione dei fatti che è stata data in questi giorni agli inquirenti. Non si è assolutamente contraddetta, ha spiegato tutte ciò che doveva spiegare senza nessun tipo di problema. Ha manifestato ancora una volta la propria disponibilità a collaborare con le forze di polizia, con la magistratura. Saluto a questo punto Maria Rita Parsi, buonasera. Buonasera. Psicoterapeuta, membro del Comitato ONU per i diritti delle bambine e dei bambini, alla quale vorrei chiedere, sono due storie molto diverse tra di loro, però diciamo che nel corso degli ultimi giorni si sono concentrate due vicende che riguardano due bambini, uno piccolissimo in 10 mesi, l'altro di 8 anni, con la domanda, allora, anche se una ricerca che stavo guardando poco fa dice che nel 60% dei casi infanticidi avvengono da parte dei padri, però c'è anche un certo numero di madri che sappiamo che uccidono i figli. E allora, al di là di quali siano i moventi, di come andranno, si evolveranno queste vicende, gli investigatori sul caso di Veronica Panarello sono sicuri che sia stato lei e stanno però ulteriormente portando avanti le indagini perché pensano che ci sia qualcosa sotto, che ci sia un'altra persona, che forse il bambino ha visto qualcosa che non doveva vedere. In questo caso, questa è la spiegazione che leggevo prima, che ha dato questa donna, questa turista russa. Lei, di fronte a questi casi, come si li spiega? Come si arriva a questo, secondo lei? Allora, si arriva a questo dopo tanto sedimentare di orrore. Nel senso che atti come questi, quando una donna si dichiara colpevole, come pare appare questa donna in Liguria, ad Imperia, oppure quando anche una donna si dichiara non colpevole, può essere, fino a quando non è dimostrato, non prendiamola come una persona che abbia commesso un errore simile. Comunque, certo, atti di orrore di questo genere nei confronti dei bambini non nascono come momenti di raptus, nascono per sedimentazione, e si parte dall'esperienza, diciamo, della madre che uccide, nel senso che quella è una donna che quando uccide un figlio che ha messo al mondo uccide se stessa, quindi c'è tutta una parte suicidaria di queste donne che non ha mai trovato un'azione se non nel momento in cui hanno ucciso il figlio o la figlia. C'è una parte di orrore, di violenza, di schiacciamento, di malessere, di sofferenza, di malattia, che si sono tutte quante articolate per arrivare a quell'atto, a quel pensiero di eliminare nel figlio quel dolore, quell'orrore, quel malessere che hanno dentro. Eliminando quel figlio si eliminano loro stesse, si uccidono perché è un insieme morte madre e bambino. Quindi queste donne sono naturalmente sono persone fortemente in difficoltà dal punto di vista psichiatrico, si tratta di persone alle cui storie personali bisogna far caso attentamente, perché le vicende che portano a eliminare un bambino o a negarlo o a strangolarlo eccetera hanno dietro una tragica serie di avvenimenti e un passato che sicuramente lega tutte queste vicende fino all'eliminazione del bambino. Il bambino è oggetto di maltrattamento in tutte le parti del mondo, ci sono milioni di bambini, lo posso dire come membro del Comitato ONU per i diritti dei fanciulli e delle fanciulle, ci sono milioni di bambini al mondo che vengono perseguitati letteralmente dagli adulti, che vengono tormentati in varia maniera dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico, perché abusati, perché utilizzati per il mercato della pedofilia, perché arruolati e fatti combattere, perché resi martiri dalla persecuzione proprio psichica che vivono in famiglia. Cioè io vorrei che ci fosse attenzione intorno non alle famiglie del Mulino Bianco, ma alle famiglie che uccidono, alle famiglie che fanno del male, perché questi sono bambini i cui casi sono eclatanti, arrivano al delitto, all'eliminazione del bambino e quindi se ne parla tanto, però del dolore quotidiano dei bambini non si parla mai. Del fatto che del beneficio profondo che ci deve essere, proprio il superiore interesse del minore, non si parla assolutamente. E oggi stiamo parlando ancora degli adulti, non stiamo parlando delle vittime, dell'orrore che avrà patito questo bambino prima di essere strangolato, del mondo che gli sarà caduto addosso vedendo che un'azione di questo genere viene fatta da una figura di riferimento affettivo o da un adulto. Dall'orrore di essere uccisi dalla propria madre, non si può parlare, non c'è nome. Dottoressa Parsi, fra l'altro ci sono diversi ascoltatori che anche in queste sere ci sono stati questa settimana meno 3-4 femminicidi, allora siccome sono molto sensibile, ma è giusto anche naturalmente per l'informazione parlarne ogni volta, cercare quando si può di fare un'analisi di quali sono anche i motivi culturali, spesso dicono però guardate che le donne compiono infanticidi, dicevo, a parte sono una minoranza, comunque estremamente drammatici i fatti quando avvengono. Lei diceva che però in questo caso, in questo tipo di delitto è specifico perché è come se fosse un distruggere se stesse da parte delle madri. Assolutamente, è proprio una distruzione proprio di sé profondamente, nel senso che quel bambino è una parte di loro che hanno portato in grembo per mesi, mesi e mesi, o desiderandolo o odiandolo profondamente, o non volendolo o volendolo invece fino in fondo, oppure considerandolo già un blocco, un handicap per la propria vita. Quindi quel legame nasce già dal punto di vista proprio del essere due in uno, già nasce nella vita prenatale. Io farei molta attenzione ai diritti dei bambini, dicendo che tra i diritti dei bambini c'è quello di essere stati ricercati e desiderati, messi al mondo per amore e con amore. Cioè questi fatti non sono fatti dei quali si deve avere si deve soltanto denunciare o provare orrore, sono fatti che bisogna analizzare fino in fondo in tutte le loro componenti, perché fanno parte della storia dell'umanità. Gli infanticidi, a proposito di infanticidi, noi oggi abbiamo la possibilità con le capacità che hanno di approfondimento le forze dell'ordine eccetera, gli strumenti che sono a disposizione modernissimi eccetera, possono risalire alle cause fino nei minimi particolari, ma quanti infanticidi ci sono stati nei secoli passati? Quante volte venivano eliminati i bambini appena nati? Ora il discorso che lo facciano le madri, lo facciano i padri, è chiaro, e vorrei sottolinearlo, che la violenza maschile non ha uguali, non è paragonabile minimamente a quello che viene fatto dalle donne nei confronti dei bambini. però è una violenza comunque che parte dal mondo, dal nucleo familiare, e quindi attenzione, una maggiore attenzione alla famiglia, a capire, a comprendere come molti degli orrori, i peggiori, nascono proprio tra le mura familiari e come potrebbero essere evitati se ci fosse da parte delle persone intorno, dei parenti. Lei non so se ha notato che in questo caso del bambino Loris, nel caso della madre, c'è stato una corsa ad accusarla e allontanarla da sì, allontanarla da parte della madre, ecco, della sorella, allora, dei parenti. La sorella, tutte, è proprio un passaparola per dire tenetela lontana. Ora, se anche questa fosse responsabile, come può darsi che sia, di questo delitto, non è la maniera per invitarla ad abbassare le difese e a parlare finalmente di quello che è accaduto, non è questa la maniera. Persone di questo genere vanno accolte, vanno contenute, ci vogliono strumenti particolari, ci vogliono figure che le possano seguire come psichiatri, psicologi, ci vuole, e non solo, gli effetti di danni di queste cose, l'effetto scia. Lei mi dice giustamente è successo questa cosa di Loris, Ragusa, e poi abbiamo avuto Bordighera, è l'effetto scia, no? Se lei nota, accade un delitto grave, c'è una strage familiare, ne seguono un altro paio immediatamente dopo. Perché? Perché notizie come queste, sull'inconscio devastato di tante persone che sono al limite proprio, sono ai margini del malessere, determinano la possibilità del cambiamento. È come se scattasse qualche cosa per cui un pensiero, un odio, un malessere profondo che già covava può trovare il suo sviluppo, capito? Sì, sempre l'interrogativo molto tormentato di dare informazioni di questo tipo, perché si dice poi c'è l'effetto di imitativo, effetto scia, insomma, effetto scia, però dall'altro, d'altronde questo è il nostro compito. E ma è un compito giustissimo, ma va dato insieme anche l'indicazione che dire alle persone che sono intorno a queste persone che sono in difficoltà e le cui difficoltà conoscono benissimo, perché non si arriva a un delitto, non si arriva a un momento chiamato poi impropriamente raptus se prima non ci sono stati tanti campanelli d'allarme. Quindi è un'attenzione sociale che bisogna creare intorno ai bambini, intorno alle famiglie, intorno alle donne, intorno alle condizioni in cui i bambini vivono in famiglia, perché le condizioni in cui un bambino che poi alla fine viene ucciso vive in famiglia non possono non apparire attraverso i suoi disegni, i suoi giochi, attraverso i contatti che ha con gli altri bambini, con le famiglie delle altre persone. Margherita Parsi, io la condivido naturalmente quello che lei ha detto, anche se si parla sempre di prevenzione e pochissima se ne fa in tutti i casi. Io intanto la ringrazio, le auguro buona continuazione. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Ci prendiamo una pausa, vedo già diversi vostri commenti invece sulle questioni politiche, ovviamente ha ragione Grillo a proposito del botte risposto con Napolitano, dove è stato finora qualche insulto nei confronti di Napolitano. E poi un non grillino scrive: Grillo ha ragione da vendere, il signor Napolitano non deve permettersi di criticare chi non ha mai fatto politica per vivere, perché altro non sapeva fare. Poi un altro: se la Costituzione fosse rispettata, Napolitano sarebbe al bar a giocare a carte con gli amici. Insomma, per ora il tenore dei messaggi è questo, ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stavo guardando anche i vostri commenti alle notizie di oggi, per esempio stavamo parlando prima del caso di Loris e di questo bambino anche a Bordighera, che fatica a essere donne, scrive qualcuno che non si firma. Poi Eloisa al 349-238-6666 manda questo messaggio: a me, scusate, questa mamma di Ragusa fa pena nei suoi appelli al marito di non lasciarla sola, nel suo percepirsi sola, l'orrore rimane, ma qualcosa di terribile e sopito esisteva. Il marito dice è facile scaricarla. E poi invece un altro messaggio su questo argomento: la famiglia è lasciata sola a se stessa, bombardata dalla crisi, dalle difficoltà relazionali e dall'indifferenza. Mentre sul botta e risposta tra Grillo e Napolitano qualcuno scrive, Marco, ecco, Grillo è un cialtrone che sta fregando quei poveri deficienti che gli vanno dietro, meno male che c'è Napolitano, lunga vita a lui. Mentre qualcun altro dice, il signor Napolitano ha ormai perso ogni freno inibitorio e dice quello che pensa realmente ed è stato uno stalinista, scrive Clotilde. Ancora, Napolitano è lo specchio di questo paese, sarà ricordato come il presidente del peggior periodo nella storia del nostro paese. Tra poco ne parleremo, intanto però vi riassumo, soprattutto se avete acceso la radio in questo momento, ma ricordatevi che Effetto Notte inizia alle 21, le notizie principali di oggi. Precettazione in vista dello sciopero generale domani, scontro tra governo, CGIL e UIL, poi il ministro Lupi ritira la precettazione per i ferrovieri, Renzi dice rispetto i sindacati, cambiamo il paese anche per loro. Riforme Italicum, il governo in minoranza PD sono ai ferri corti, Grillo attacca Napolitano, l'Italia dice nel fango e lui invece su Marte. Altri due arresti a Roma, il procuratore Pignatone avverte non è ancora finita. A proposito dell'inchiesta su Mafia Capitale, Napolitano lancia il suo monito, attenti al populismo, e poi il bimbo scomparso di 9 mesi a Bordighera, il bimbo russo, la mamma è indagata per omicidio volontario aggravato, e poi invece la madre di Loris in lacrime nell'interrogatorio oggi davanti al GIP, non sono stata io, ribadisce. La benzina che scende sotto 1,6 euro, è la prima volta in 3 anni, e poi il Pentagono che sceglie l'Italia per la manutenzione degli F-35, e c'è un accordo quindi Italia-Stati Uniti, e Google News che lascia la Spagna, ne parlavamo prima. Quindi dicevamo anche dalle notizie elencate nel riassunto questo scontro tra Grillo e Napolitano, sentiamo che cosa aveva detto, il passaggio di quello che aveva detto Napolitano ieri all'Accademia dei Lincei a proposito dell'antipolitica che comincia a diventare una patologia eversiva e del fatto che c'è comunque anche una degenerazione della politica. Sentiamo. La critica della politica e dei partiti, preziosa e feconda nel suo rigore, purché non priva di obiettività, di senso della misura, di capacità di distinguere ed esprimere giudizi differenziati, è degenerata in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. E oggi Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, sul suo blog risponde a queste dichiarazioni di Napolitano, che ha usato parole durissime per biasimare l'antipolitica, dice: lo confesso, sono un eversore, mi faccio schifo, Napolitano ha ragione, pago le tasse, non rubo, denuncio il malaffare, non mi faccio i cazzi miei e nessuno ancora ha cercato di comprarmi, sono un problema e me ne rendo conto, scrive Grillo. E ancora: accostarmi al sacco di Roma come lei ha fatto ieri, detto da lei all'Accademia dei Lincei, mi rende anche un po' orgoglioso, un monito così equivale a un'onorificenza. Allora chiedo a Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, che saluto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Carla Ruocco. Grillo evidentemente ha percepito che questi attacchi erano nei suoi confronti, nei confronti del Movimento 5 Stelle. Qual è il punto in particolare che ha sentito rivolto a se stesso? Io trovo che la situazione sia molto triste, perché essere onesti oggi significa essere sovversivi, cioè voler sovvertire un sistema che, come diceva qualche radioascoltatore, ha portato l'Italia a scrivere una delle pagine più buie della storia della Repubblica. Questa è una denuncia che un cittadino, che di cui veramente adesso mi faccio parte, perché io sono innanzitutto una cittadina, si trova a fronteggiare una pagina scurissima della storia della Repubblica Italiana. Sì, noi la vogliamo sovvertire, vogliamo cambiare completamente questo sistema marcio che porta al dissolvimento totale di tutte le risorse positive del nostro paese. Vediamo la vicenda di Roma Capitale, ma è solo l'ultima, noi la vogliamo sovvertire. Certo, confermo, restituiamo i nostri stipendi, abbiamo creato 10 milioni, un fondo per le microimprese, più sovversivi di così rispetto a gente che su un bilancio di Roma Capitale di 5 miliardi di euro, 600 milioni sono solo ed esclusivamente per sprechi dichiarati. Io lo voglio sovvertire questo sistema e lo certifico questo fatto, assolutamente, perché sono una persona onesta. Ruocco, le leggo ancora qualche messaggio dalla pagina Facebook. Luca dice: Napolitano ha da difendere certi interessi e lo fa nel modo più rivoltante, cioè con l'ipocrisia. Arturo: patologico il modo mafioso affaristico di gestire questo paese da parte dei partiti che Napolitano sostiene e tutela. Claudio Antonio: se la politica è quella dei nostri amministratori preoccupati solo di fare i propri interessi e promesse a vuoto, beh, meglio l'antipolitica e meglio i 5 Stelle. Poi qualcuno dice: bisogna intendersi su cosa voglia dire antipolitica, e altri messaggi. Ma le dicevo, il passaggio che avete sentito contro di voi esattamente qual è? Forse quello dove Napolitano diceva... Noi noi siamo percepiti sicuramente come forza antisistema, quindi fondamentalmente il Napolitano, volendo dire eversivi, voleva specificare antisistema. Poi è utilizzato strumentalmente questa accezione di antipolitica, che poi devono ancora spiegare bene cosa significa, perché sicuramente se è contro questa politica, noi siamo contro questa politica che ha messo sotto i piedi gli interessi della popolazione. Questa è vera antipolitica, è anticittadino e antidemocrazia, questo sì. Poi non so perché ci definiscono a volte antipolitici, veramente è una terminologia tra l'altro povera e veramente etimologicamente quasi insignificante, direi. Anche se Carla Ruocco, onorevole Ruocco, Napolitano mi pare che nel suo discorso abbia anche spiegato che in realtà questa antipolitica è iniziata già dal 92, no? Che poi è stata addirittura il fondamento costituito per la nascita della Seconda Repubblica, che lui ha detto non è stato un rigeneramento della democrazia, anzi una degenerazione poi progressiva, quindi già si riferiva ai tempi di allora. Diciamo che probabilmente quando non eravate ancora nati. Cioè, sì, vabbè, evidentemente il presidente, qualunque scossone al sistema, lo ritiene un qualcosa di eversivo rispetto al sistema generale, che poi ogni tanto sfocia veramente in queste inchieste terribili. Per cui probabilmente nel 92 ha ravvisato un altro scossone attraverso Tangentopoli. Sicuramente oggi l'Italia ha un'opportunità in più, che è il Movimento 5 Stelle, che nel 92 non aveva, che sono i cittadini che finalmente si sono riappropriati delle istituzioni e quindi vogliono effettivamente attraverso le istituzioni riappropriarsi delle decisioni che riguardano la loro vita. Vorrei far sentire anche questo passaggio di Napolitano, che parla di banditore di smisurate speranze, sentiamo. Stroncò magistralmente con coraggio l'influenza fuorviante che esercitano i senza speranza. La letteratura apocalittica, egli citò, le previsioni catastrofiche dubbie o fallite, il rifiuto dell'incertezza e così via. E in termini ugualmente impietosi egli analizzò i portatori di smisurate speranze, non insensibili al fascino delle rivoluzioni. Indicò infine con grande sapienza storica la strada maestra delle ragionevoli speranze da coltivare con perseveranza e con ogni sobrietà giorno per giorno. Mi auguro siano risultate tali quelle ricavabili dalle mie considerazioni sulla politica, tenendoci ben lontani sia dai senza speranze sia dai banditori di smisurate speranze. Secondo lei, Carla Ruocco, a chi si riferiva parlando di banditori di smisurate speranze? Ma guardi, abbiamo visto, per esempio, io non so lui a chi si riferisse, per quello che mi riguarda i banditori di tante speranze sono state prima Berlusconi, poi Renzi, che continuano a sorridere e dire che adesso l'Italia ha cambiato verso e che i ristoranti erano pieni. Quindi per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre detto che il percorso di cambiamento per questo paese è un percorso lungo e difficile. Si può fare, oggi c'è una forza politica pulita che restituisce i soldi indietro e non solo, e studia, io sono ancora qui in Parlamento, studia giorno e notte i testi di legge per migliorarli, per proporre un sistema nuovo e soprattutto formato da persone oneste. Più ragionevoli di così veramente non so a chi si possa riferire. Carla Ruocco, mi faccia veramente un ultimo commento, una risposta sintetica e poi ci salutiamo. Lei come giudica la nomina del magistrato Sabella come assessore alla legalità di Roma, che poi ci sarà il CSM che deve dare il suo via libera? Ma guardi, io mi astengo da qualunque commento, sicuramente le posso dire che non è una persona, nel bene o nel male, che cambia un sistema, quindi lo scandalo di Roma sicuramente lascia un segno talmente pesante e violento sulla storia della città che non sarà una persona, nel bene o nel male, che potrà cambiare la situazione. Grazie intanto, onorevole Ruocco. Grazie, grazie, buona continuazione. Buonasera. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Da uomo di destra dico giù le mani del presidente, dice Enzo 64. Adesso però vi ricordo brevemente le notizie principali con il ministro Lupi che ha fatto un passo indietro sulla precettazione nei confronti dei ferrovieri per lo sciopero di domani dopo questo scontro tra governo e CGIL. Poi il governo e minoranza PD che sono i ferri corti su riforme e Italicum e Napolitano che lancia un monito nei confronti della corruzione e Grillo che lo attacca dicendo l'Italia è nel fango, lui è su Marte. E poi ancora il bimbo russo di 9 mesi che è scomparso a Bordighera, la madre è stata indagata per omicidio volontario aggravato, la benzina che scende per la prima volta dopo 3 anni e Google News che lascia la Spagna perché non vuole pagare per i contenuti gli editori. L'Europa. Europa 24 notte. Parliamo di acquisti online. Natale, tempo di acquisti, sempre più consumatori si rivolgono all'online e secondo il consorzio Netcom per queste festività saranno 10 milioni gli italiani che lo faranno, ma il commercio elettronico nel nostro paese stenta comunque a decollare, non tutti conoscono le nuove tutele europee in materia. Per questo la Commissione europea e l'Antitrust hanno lanciato da ieri un nuovo spot. Come consumatore, ovunque tu faccia acquisti nell'Unione Europea, hai dei diritti. Il diritto a una pubblicità veritiera, il diritto di sottoscrivere contratti chiari senza clausole inique, il diritto di restituire prodotti acquistati online entro 14 giorni, il diritto di far riparare o sostituire gratis entro 2 anni prodotti difettosi, il diritto all'assistenza gratuita del Centro Europeo Consumatori. Prima di fare acquisti, informati sui tuoi diritti. Acquisti online più trasparenti e sicuri, queste le parole d'ordine delle nuove regole europee, regole che però molti consumatori ancora non conoscono, sebbene la direttiva comunitaria in materia sia in vigore dal giugno scorso ed è per questo che torna in occasione del Natale lo spot informativo prodotto dalla Commissione europea dell'Antitrust. Stop a spese e costi nascosti su internet, diritto di ripensamento, eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito, queste alcune delle tutele per chi acquista soprattutto online, ma sentiamo meglio da Angel Beremischi della rappresentanza italiana della Commissione europea. Una maggiore trasparenza, obblighi superiori a quelli precedenti per quanto riguarda l'informazione precontrattuale, quindi il consumatore deve essere messo in grado di poter scegliere consapevolmente il prodotto che vuole acquistare. Nel caso in cui questo prodotto non gli piace, gli vengono garantiti, grazie alla nuova legislazione, maggiori diritti di recessione soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online, termine previsto passa dai precedenti 10 agli attuali 14 giorni. Nel caso in cui il consumatore poi non sia neanche stato preventivamente informato sul diritto di ripensamento, addirittura scatta un ulteriore anno in cui il consumatore può restituire questo bene senza appunto pagarlo. C'è poi anche un obbligo per il venditore di abbassare i tempi necessari per restituire il denaro qualora questo denaro fosse già stato versato, quindi dai 30 giorni si passa ai 14 giorni. Quindi insomma i diritti abbastanza concreti. Bisogna ricordare che quando si parla di un diritto del consumatore o di una tutela dei consumatori, significa non solo un mercato unico che funziona meglio per chi acquista i beni, ma reca anche vantaggi alle imprese perché assicura per loro una maggiore trasparenza, maggiore concorrenza, condizioni eque e sicurezza per le stesse imprese e per i loro prodotti. La direttiva europea sui diritti dei consumatori, come abbiamo detto, riguarda soprattutto gli acquisti online, un settore che però in Italia stenta a decollare. Il segretario dell'ADOC, Associazione per la difesa e l'orientamento del consumatore, Roberto Tascini. Io credo che purtroppo ci sono ancora situazioni incresciosi e trappole, invidie, presenti su diversi siti, però ecco, la prospettiva è che il mercato si adegui a queste nuove norme e queste nuove regole, perché se il consumatore guadagna maggiore fiducia nei confronti di questo strumento che è appunto il commercio online, credo che se ne giovi anche l'intera economia e soprattutto consentirà una crescita delle transazioni che oggi in Italia sono ancora piuttosto basse. Indubbiamente si tratta di accrescere la fiducia dei consumatori e le norme ad esempio sul diritto di ripensamento, che sono importanti e che vengono raddoppiati i tempi, per cui si passa da 7 a 14 giorni, consentono al consumatore di affrontare anche questi acquisti con maggiore serenità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vediamo ancora i vostri messaggi con Stefano che dice: Napolitano conferma di essere organico a questo sistema marcio, e Claudio dice: uno vale ancora uno per i 5 Stelle. Mi sembra che un grillo vale 100.000, perché se qualcuno si azzarda a pensare diversamente dal primo o dal secondo, ci vogliono uomini onesti, politici, non burattini di grillo. Dice: adesso vediamo se ci sono degli aggiornamenti per il calcio. Mi pare che l'unica in forse fosse il Napoli, Dario Ricci, in Europa League? Sì, sì, diciamo che in forse il primo posto nel girone per il Napoli. Allora andiamo con ordine, partendo proprio dai partenopei che hai citato. Siamo all'intervallo, al San Paolo il Napoli in vantaggio per 2-0 sullo Slovan Bratislava grazie ai gol di Mertens e di Amsic. Questo risultato garantirebbe ai partenopei il primo posto nel girone. Sotto di 1-0 invece a Firenze è la Fiorentina contro la Dinamo Minsk, in rete Konsevoj al 39esimo per la Dinamo Minsk, ma risultato ininfluente per la qualificazione di Viola, comunque certi del primo posto. 0-0 invece per l'Inter a Baku contro gli azzeri del Karabakh, ma Inter anche in questo caso già qualificata prima del fischio d'inizio con la certezza del primo posto. La buona notizia è stata la goleada del Torino 5-1 a Copenaghen, vittoria agevolata anche dalla doppia espulsione di due giocatori danesi, ma espulsioni giustissime, quindi Torino che poi ha dilagato dopo l'iniziale svantaggio e che si è qualificata come secondo nel suo gruppo. Molto bene, caro Dario Ricci. Adesso, grazie Dario, c'è il professor Bignami, Giovanni Bignami. Buonasera, professore. Eccomi qua, buonasera a tutti. Ci sono rimasti 2 minuti e mezzo perché lei era sempre occupato, scienziato, divulgatore, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, al quale chiedo: questa missione Rosetta, è arrivata la notizia che questa sonda dell'ESA, Rosetta, dell'Agenzia Spaziale Europea, aveva fatto un viaggio di anni per rincorrere la cometa 67P, perché doveva studiare l'acqua su questa cometa per studiare l'origine dell'universo. Invece si è scoperto, che dai primi dati che manda Rosetta, che quest'acqua non è compatibile con gli elementi che ci sono sulla Terra, e che quindi bisogna invece adesso scoprirlo sugli asteroidi. Bisogna rincorrere per altri anni gli asteroidi adesso, professor Bignami. No, è un po' troppo riassunta la scienza non funziona su un caso solo. Allora, diciamo che la singola misura fatta sull'acqua di quella particolare cometa lì sembra non coincidere con la composizione, con le caratteristiche dell'acqua degli oceani della Terra, per cui diciamo non c'è una spettacolare conferma della affascinante ipotesi che l'acqua degli oceani sia dovuta a un bombardamento cometario e basta, diciamo. In realtà purtroppo le comete sono diverse tra di loro, sono miliardi di miliardi, alcune vengono da vicino, anche altre da più lontano del sistema solare. Quindi è presto per dire che le comete non c'entrano con l'acqua degli oceani, certamente però è probabile che quello che ha costruito l'acqua degli oceani sia del materiale nato più vicino alla Terra che non le comete che vengono da lontanissimo. Quindi, per esempio, gli asteroidi sono degli ottimi indiziati. Ci si poteva pensare prima, adesso rincorreremo a qualche miliardo di cometa, professore, che lei diceva sono tantissime, quindi un caso non fa l'universo. Assolutamente, no, non si poteva pensare prima, anzi, un'altra cometa analizzata poco tempo fa invece aveva una composizione perfettamente compatibile con gli oceani. Purtroppo, ripeto, la scienza va avanti così, una volta sì, una volta no, bisogna aspettare ancora un bel po' di anni e capire meglio il risultato. Certamente però rimane vero che la quantità di acqua che c'è sugli oceani in che modo è arrivata sulla Terra dall'esterno. Quindi quando andiamo a nuotare, quando facciamo il bagno nel Mediterraneo o in qualunque altra parte, nuotiamo in una specie di zuppa di pesce extraterrestre. Una specie di cielo, di universo. È molto romantico e molto suggestivo questa sua ultima immagine, professor Giovanni Bignami. Io la ringrazio moltissimo, ci ha aiutato anche un po' a sognare in finale. Grazie professore, noi ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.